Buongiorno. Buongiorno cara, come stai? Bene, te? Molto bene, rieccoci qua per un nuovo episodio di questa. Com'è la Bene. sveglia? Com'è la sveglia a quest'ora? Bene, comincia a essere più morbido. Più Per naturale, te? no? Sì, Sì, sì. per te? Per me molto bene, molto bene. Faccio ancora un po' di fatica, ma è vero che diventa sempre più naturale, nel senso che ormai lo so che c'è questo appuntamento, quindi è anche più bello, Sì, ieri parlavo con il mio compagno e gli dicevo: guarda che sono già 4 volte che riusciamo a fare questa telefonata, questo podcast. no? Così, naturale, no? Sì. Senza troppe aspettative, semplicemente si fa. Fluido, Basta. semplicemente si fa, esatto. Sì, perché. Che bello, poi non vedevo l'ora che chiamavi, che squillava il telefono. È bello svegliarsi con questo entusiasmo, mi piace da morire. Sì. Mi chiedo, chissà se qualcun altro piano piano sta facendo quello che facciamo noi, no? Cioè avere un compagno di viaggio, un compagno di crescita personale al quale lo supporta. Si supportano entrambi? Chissà Chissà, forse un giorno. se qualcuno che ascolta magari l'ha fatto, lo sta facendo o vuole farlo e non riesce a farlo, lo può tranquillamente scrivere boh, da qualche parte su live stream, su YouTube, dovunque mettiamo questo podcast che praticamente sta ovunque, perché a noi ci ha ispirato gli altri che facevano questa cosa qua, no? Sì. Ce lo dicevano sempre e oggi siamo noi a farlo, no? Quindi se funziona, oggi lo facciamo noi, domani lo fanno altri, è una catena, no? Certo, chissà se un giorno lo facciamo noi insieme agli altri, sarebbe anche Magari bello. sicuramente sarebbe molto bello. Bene, oggi allora andiamo. Ci abbiamo parecchie cosine molto interessanti di cui parlare. Un attimo che controllo se tutto funziona. Allora, il cellulare sta registrando, quindi funziona. Online sta andando, spero che si senta bene. Qui dice perfect streaming. Insomma, funziona tutto. Ecco, importante sempre, le prime volte capitava che presi dall'entusiasmo della conversazione, no? Magari non controllavo l'aspetto tecnico. Invece la cosa bella è che adesso non solo la conversazione è più fluida e più naturale, ma riesco a essere anche presente e guardare un attimo tutto l'aspetto tecnico per vedere se funziona, perché se no è un peccato, no? Fare solo una cosa bene anziché tutto bene. Quindi adesso funziona tutto, ecco, ci abbiamo tutto registrato e possiamo andare avanti. Avevamo detto di parlare di alcune cose e secondo me corrisponde perché oggi volevamo parlare fondamentalmente di crisi, no? Esatto, sì. Cioè la crisi, i problemi, le cose che noi reputiamo brutte e negative, no? Esatto, sì, proprio perché questo tema attualmente tanta gente viene da me e mi dice che si sente in crisi, che vive una crisi, e quindi questo tema mi ha sempre colpito. E ho approfondito un po' che cos'è la crisi, no? Quali sono stati i miei momenti di crisi? Riflettendo bene, riflettendo nel silenzio, no? Da sola, nell'intimità da sola, ho capito che i momenti di crisi sono stati più illuminanti, più positivi alla fine. Magari in quel momento non vedevo questa positività, però poi ho visto che andando in crisi sono riuscita a tirar fuori il meglio di me. E penso che anche a te è capitato lo stesso. Sì, guarda, sicuramente. Diciamo che la vita mi ha portato per fortuna numerose crisi, direi, no? Lo dico oggi così perché, come dici tu, ormai l'ho capito come funziona, no? Però sì, ho scoperto che la crisi fondamentalmente dopo tante lotte, oggi per me la crisi è un momento veramente di insegnamento, boh, speciale. So che dietro la crisi c'è veramente soluzione, no? So che c'è. È come se in qualche modo ti mette alle strette, ti mette in un angolo e lì sei costretto a reagire, no? E siccome purtroppo Esatto, a volte almeno io sono un po' pigro, no? E nella pigrizia la crisi invece mi stimola, mi dà la forza, mi costringe ad agire quando magari invece per pigrizia non lo faccio. È brutto dirlo, ma la crisi forse è in qualche modo la nostra migliore amica, no? sì. Adesso voglio leggere quello che diceva Albert Einstein riguardo alla crisi. La crisi è la migliore benedizione. Non pretendiamo che le cose cambino se facciamo sempre la stessa cosa. La crisi è la migliore benedizione che può arrivare a persone e paesi, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo che il giorno nasce dalla notte oscura. È dalla crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Quindi ogni volta ci sono tanti libri che parlano della crisi, per fortuna c'è crisi, perché come dici te, quando uno va in crisi, cioè la crisi per me è un cambiamento, no? Perché magari siamo abituati a un certo stile di vita, a un certo stile di abitudini, di routine, succede qualcosa che cambia questo flusso e noi andiamo in crisi. Quindi in realtà la crisi per me è un cambiamento. Che cosa bisogna fare quando c'è un cambiamento inaspettato? Niente, lì esce l'iniziativa, la creatività, bisogna inventarsi le cose, bisogna, per dire, se parliamo della crisi economica, come ripeto, per me è un cambiamento economico, bisogna inventare nuove cose, no? Quindi c'è la creatività, la gente magari nella povertà riesce ad unire più le forze, a Sì, stare più fanno. con il prossimo, Nasce il a baratto, creare no? nuove cose, aiutarsi uno con l'altro. Quindi tutto dipende come prendiamo questo cambiamento chiamato crisi, secondo me, non so te. No, no, io sono d'accordo e a questo punto, visto che ci piace essere concreti, io racconterei un mio aneddoto, uno dei milioni di cui ci sono, ma diciamo quello più tangibile, che è il momento di crisi quando praticamente mi trovavo a Roma, avevo da poco iniziato ad insegnare inglese, no? Cioè da poco ho iniziato ad insegnare inglese in modo autonomo. E dopo aver lavorato con delle scuole di Roma anche importanti, diciamo che avevo cercato, anche lì ero andato in crisi perché non riuscivo più a esprimere me stesso, no? E quindi ho deciso di lavorare da solo. Ho conosciuto mio amico Danny Singh, che è mio amico e compagno di lavoro e di avventure anche, diciamo, in giro per il mondo, e con lui abbiamo deciso di iniziare a fare dei gruppi autonomi, no? In modo creativo, cioè lavorare in modo che le persone imparassero l'inglese in modo divertente, in modo che imparassero l'inglese poi quello vero, quello concreto, no? Non quello sui libri, eccetera, eccetera. L'unico problema che c'era e c'è a Roma, o comunque in una grande città, era il luogo per fare le lezioni, perché comunque qualsiasi luogo ci fosse disponibile costava un sacco di soldi. Era sempre qualcosa di non perfetto, nel senso che mai, mai era come lo desideravamo noi, no? C'erano sempre dei limiti e quindi poi c'erano dei costi e siccome eravamo all'inizio non sapevamo quanto poter investire perché dici ok, ma prendiamo una stanza in affitto, ma poi cioè, è una prova, non sappiamo nemmeno se abbiamo due studenti, figurati, no? Quindi siamo andati in crisi, io e Danny, mi ricordo, stavamo lavorando in questa riunione nella libreria Feltrinelli in centro a Piazza Largo Argentina, no? Dove c'è tutto un passaggio di persone, di turisti molto, molto, molto alto e quindi è molto stimolante anche a livello culturale e visivo, no? Quindi vedi persone che lavorano tutto il mondo, senti parlare tutte le lingue del mondo. E noi stavamo lavorando lì e ispirati da questa atmosfera, diciamo, romantica di Roma, guardando fuori dalla finestra, a un certo punto ricordo benissimo che avendo praticato la crisi per moltissimo tempo in moltissimi settori, ho detto a Danny, ma perché non proviamo a prendere questo lato, questo problema e non proviamo a metterlo a nostro vantaggio? Come possiamo trasformare questo problema che è non abbiamo un posto per fare lezioni e non solo trovare la soluzione, ma proprio renderlo il nostro punto di forza, no? Allora, parlando così, ci è venuto in mente che il modo migliore per fare le nostre lezioni, che erano lezioni completamente alternative, diverse da quelle che si fanno di solito, era di farle in giro. E quindi abbiamo detto, cavoli, lo facciamo, facciamo un corso itinerante per le vie di Roma, andando, ne so, a Piazza di Spagna, Piazza Navona, al Pantheon, eccetera, eccetera. Andiamo in giro, andiamo in qualche pub se piove, quindi ci sono posti al coperto. E Roma per me prometteva molto bene perché nei pub spesso si parla inglese, in centro si parla inglese. Quindi abbiamo detto sfruttiamo qualche pub, qualche galleria d'arte, sfruttiamo qualche negozio dove si parla inglese, qualche centro commerciale piccolino interno, sfruttiamo qualche luogo turistico per avere un posto al coperto se c'è bisogno o bello comunque all'aperto se non ci sia bisogno per questioni meteo. In più sfruttiamo il fatto che è pieno di turisti, e a Roma è pieno di turisti che parlano inglese, e facciamo parlare gli studenti con i turisti. E praticamente abbiamo iniziato questo corso e questo corso praticamente è diventato un corso itinerante e la sua forza è stata quella di non avere una classe, non avere un luogo. Quindi la crisi che all'inizio ci metteva in crisi, poi invece è stata l'unica motivazione per cui abbiamo continuato a fare i nostri corsi e ci siamo anche molto divertiti nel fare tutto questo, perché poi questi corsi erano veramente creativi e soprattutto non potevi affidarti a una previsione, perché facendo il corso in giro poteva capitare che oggi c'era tempo buono, domani pioveva. Domani c'era la manifestazione, quel negozio era chiuso, quindi permetteva anche a noi di essere molto creativi e molto disponibili a seguire gli eventi. E gli studenti avevano mi ricordo, una partecipazione molto alta. È stato un successo clamoroso per più di un anno intero. Abbiamo fatto dei corsi veramente uno più bello dell'altro. Quindi se questa crisi non è stata una benedizione, non credo che ci sia altro modo di trasformare una crisi in modo migliore di questo. Non perché mi prendo il merito di essere bravo, ma semplicemente di aver voluto guardare oltre il naso, no? Quindi ho detto, ok, la crisi c'è, il problema c'è, o piango, o mi dispero, o smetto di fare quello che voglio fare, o semplicemente trovo il modo di trasformare questa crisi in opportunità, no? Chi era? Mi sembrano, non so se è vero, questo forse è un mito, forse è una leggenda. In tutti i corsi di formazione dicono sempre che crisi in cinese vuol dire cambiamento e opportunità, come dicevi tu, no? Quindi credo che corrisponda benissimo, cambiamento e opportunità. Quindi è stato per noi un cambiamento, non abbiamo più lavorato nel modo classico e da allora non ci ho più lavorato, opportunità di trovare una nuova via ma penso che questo sia un esempio abbastanza chiaro. Non so se ti ricordi qualcosa anche tu personalmente dove hai avuto veramente un cambio del genere, Paolina. Sì, come no, quando sei andato via da Roma, lavoravo di cameriera e per me tu eri il mio protettore, il mio angelo. Se ricordi bene, essendo l'unica straniera, eri tu che praticamente ti prendevi cura di me quando lavoravamo come camerieri al ristorante dell'hotel. Al Quando sei Globus, andato diciamolo, al via, sì, Globus. al Globus. Che meraviglia. Quando sei andato via sono entrata in una profonda crisi emotiva, psicologica, perché mi sentivo protetta, non sapevo più dove andare, che fare, come muovermi, nonostante tu mi abbia insegnato tante cose. Non so se ricordi quanto piangevo, che non volevo che andavi via, ti pregavo, allo stesso momento sapevo che volevi tantissimo cambiare, no? Cambiare lavoro, Cambiare vita proprio, sì. cambiare tutto, esatto. E non era giusto che per i miei pianti o per me tu rimanevi, no? Non Certo. saresti mai rimasto, però io ci provavo a non Esatto. andare via. E proprio quella crisi, quella difficoltà che è stato ritrovarmi da sola, dover difendermi davanti a tutti, mentre prima lo facevi te, o rimanevo a piangere, come dici te, semplicemente andavo via anch'io come te, o tiravo fuori altre qualità che io non sapevo di avere, perché anche questo accade, no? Nei momenti di crisi, di cambiamento, noi tiriamo fuori quelle capacità che non pensavamo di avere, diciamo, ma io ero capace di fare queste cose. E quindi ho cominciato a leggere libri, come lavorare con persone difficili, come parlare, no? Col capo, davanti al pubblico. E quel momento, quando sei andato via, nonostante sia stato un momento di crisi emotiva, che piangevo tantissimo, è stato uno dei migliori momenti per la mia crescita. Cioè proprio quella difficoltà, quel dolore, quel pianto mi ha permesso di tirar fuori non il meglio di me, perché ogni giorno lo tiro fuori, qualcosina di nuovo imparo di me stessa, però quel momento, quell'anno per me è stato di grandissimo cambiamento. Ho maturato tanto, ho imparato a gestire le emozioni e quando ho capito l'importanza della crisi, cioè come prenderla in modo positivo, da lì ho cominciato un po' a divertirmi invece, no? Mi ricordo che andavo a fare la cosa più stressante al mondo in quel periodo per me, i colloqui di lavoro. Quindi all'inizio andavo in crisi, mi sudavano le mani, mi mettevo in difficoltà, mi sentivo inferiore, avevo paura che mi prendevano o non mi prendevano a lavorare. Invece dopo questo episodio della crisi emotiva che ho avuto quando tu sei andato via, ho detto no, cambiamo atteggiamento nell'affrontare i colloqui di lavoro. Andiamo con un atteggiamento diverso a quello della paura, no? Quello di andare in crisi, mi prenderanno o non mi prenderanno. E quindi ho cominciato a divertirmi. E io penso che tantissima gente vive tanti momenti di crisi e li supera, soltanto che non ha la consapevolezza, non prende atto di quello che sta vivendo, no? Perché la frenesia della giornata, andiamo avanti, non ci soffermiamo un attimo a capire cosa stiamo facendo in questo momento di crisi che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, cosa siamo riusciti a fare. Perché io sono sicura che se tutte le persone ci sediamo un attimo e vediamo tutti i momenti di crisi che abbiamo vissuto, abbiamo superato, ci rafforziamo Cosa siamo riusciti a fare? questa capacità di superare ancora cose Perché più io sono sicura che impegnative, tutte le persone, no? Quindi ci tutto è sediamo un come attimo prendiamo le e cose. vediamo tutti i Se momenti di lasciamo crisi lasciamo che abbiamo andare, vissuto, abbiamo va bene, è un momento che superato. lo superiamo così. Invece se riflettiamo Rafforziamo e acquisiamo questo fare, questa consapevolezza, capacità di penso che ci superare rendiamo ancora più cose più. forti e ogni volta possiamo affrontare cose più Sì. grandi, cambiamenti più grandi. Ti ricordi? Questo mi ha aiutato molto, sì. Cioè, non so, lo posso raccontare io. Io mi ricordo benissimo che quando sono andato via ti ho lasciato che eri un agnellino piagnucolante, no? Me lo ricordo e mi ricordo anche che, come dici tu, per amor proprio mio non potevo far altro, nel senso che purtroppo era un mio bisogno personale quello di andare via, quindi nonostante mi potesse dispiacere, non potevo fare altrimenti, e quindi mi ricordo di aver pensato, qui ognuno per la strada sua, no? Nel senso che in momenti di crisi è anche vero che poi, da un lato, ci si aiuta di più, dall'altro poi si pensa anche un po' più a se stessi, no? A seconda delle necessità. E in quel caso mi ricordo che io pensai molto a me stesso, cioè avevo quel bisogno e ho detto via tutto il resto, seguiamo me stesso, no? Che era poi quello di andare a fare il corso per insegnare inglese, che quindi è stato il precursore della mia storia di prima. Però quello che mi ricordo è che quando io all'inizio ti insegnavo, tra virgolette, ti raccontavo i segreti del mestiere, insomma, quando ci divertivamo a giocare, a fare i dipendenti, no? No, interagire con i capi, cattivi, i capi buoni, cercare di trovare il modo per comunicare o meno, no? Abbiamo fatto tanti esperimenti, no? Però io ero il punto di riferimento che ti difendeva e ero quello che sapeva, no? Tenere la mano forte, no? Rispetto a tutte le vicende che succedevano e tu eri quella protetta. Ma io mi ricordo benissimo che quando io sono andato via, dai tuoi racconti e comunque tornavo a vederti, eccetera, mi ricordo che non solo hai imparato a difenderti da sola, ma io mi ricordo proprio benissimo che tu eri addirittura arrivata a parlare ed esporti in un modo che io non avrei mai saputo fare prima. Mi ricordo il tuo modo proprio di interagire con i capi di allora, con i tuoi supervisori, eccetera. Era molto più diretto, molto più concreto, molto più efficace rispetto al mio che spesso tendevo invece magari a nascondere o a dire le cose tra le righe, eccetera. Tu mi ricordo che eri arrivata a fare, insomma, a prendere un potere nel senso proprio, cioè Paolina era diventata veramente il capo al ristorante e mi ricordo che ne sono successe di cose dove la tua forza e la tua voce è stata ascoltata, no? Cosa che per esempio con me non era mai successo se non in momenti di diciamo di crisi dove non potevano dirmi di no, non so se ti ricordi. Quindi non solo hai superato quel problema, ma hai tirato fuori una forza che prima non solo non avevi, ma io sono rimasto perché dico, ma questa è Paolina, quella piccolina che piagnucolava, ma come? Questa adesso darebbe filo da torcere a me, che ero tra virgolette quello che, di cui lei si protegge, da cui lei si protegge, cioè tu ti proteggevi con me, mentre poi eri diventata veramente un leone, no? Un leone, io mi ricordo eri un leone, una bestia nel senso positivo, no? Sono dovuta diventare così, ho dovuto imparare a difendermi. E io non avevo scelta, cioè non è che poi. Oddio, Non avevi, avevo scelta se però. rimanere a lavorare o no. Ecco perché facevo altri colloqui. Il contratto che avevo lì, però, mi permetteva di stare tranquilla col permesso di soggiorno e tutto quanto, no? Quindi questo atto tuo di egoismo, perché lì per lì io l'ho percepito così, Sì, ma è no, stato così, all'inizio, è stato egoista, certo. ho visto quanto sei stato cattivo, quanto sei stato egoista con me. In realtà, dopo un anno e tutt'oggi, io ti ringrazio perché grazie a quel atto di egoismo che hai fatto, io sono potuta tirare fuori il meglio di me. Ho cercato altre risorse perché all'inizio eri tu la mia risorsa, la mia fonte dove andavo ad attingere qualsiasi situazione, a risolvere qualsiasi problema, a trovare il conforto. Quando sei andato via, per me è stato proprio distruttivo, molto doloroso, no? Invece proprio quel atto lì mi ha permesso di tirar fuori il meglio di me. Quindi da quel momento tutte le situazioni che si sono presentate nella mia vita o tutte le persone che hanno fatto delle azioni che a me hanno provocato crisi, in realtà io sento oggi gratitudine, perché sono state le persone o i momenti più illuminanti della mia vita, illuminanti nel senso che mi hanno fatto accendere quella lampadina in più di dire aspetta, se questo sta accadendo, io come posso, come hai detto prima tu, trasformare questo problema in una soluzione, in una nuova idea, no? Quindi grazie, grazie Stefano, perché tante volte, non solo quella, quella è stata la più La forte, più forte, sì, ma ne abbiamo vissute tante l'inizio. noi, no? Ma io credo che anche poi questo porti anche a un'altra considerazione che io faccio moltissimo, che è quella dell'attaccamento, no? Certo. Paradossalmente, quando incontriamo una persona che ci guida, vuoi che sia un fratello, vuoi che sia una mamma, vuoi che sia un amico, vuoi che sia un maestro spirituale, vuoi che sia un coach, qualsiasi tipo sia un maestro, il problema nasce quando poi noi prendiamo quel maestro come la nostra fonte di ispirazione, ok, ma come la nostra fonte proprio di salvezza, no? Come hai detto tu, attingevi a me per ogni problema, no? E lì è un problema, perché poi nel momento in cui quella persona, quella figura viene a mancare, vuoi per un suo egoismo, vuoi perché muore, perché la gente muore, e lo sappiamo Certo. benissimo, no? Tutti quanti abbiamo esperienza di qualcuno che muore, e quando qualcuno muore, quelle cose che prima quella persona ci dava non ce le dà più, e noi andiamo in crisi. Perché? Perché cercavamo fuori quello che invece dobbiamo cercare dentro, e la crisi ci permette, o con le buone o con le cattive, ci permette di trovare quello che prima cercavamo e trovavamo fuori dentro. Nel senso che io avevo anche io un maestro, e quello che prima lui mi dava, che era il mio punto di riferimento, nel momento in cui se n'è andato, ho dovuto cercarlo dentro di me. Oggi che quelle cose le trovo dentro di me, come tu quella volta hai trovato la forza in te, poi non hai più bisogno di qualcuno che per forza sta lì a darti una mano, ma è una cosa in più. Cioè, oggi parlare qui con me e con te, cioè tra noi, è una gioia per me farlo, come una gioia per te farlo, ma non è un bisogno. Sì. Non è una Per fortuna necessità. c'è la crisi, per fortuna c'è la crisi. Per fortuna Io da c'è la quella crisi, volta dico veramente. grazie universo e grazie a tutte le persone che mi mandano in difficoltà perché mi Esatto. permettono di crescere. Quindi sentire tanta Tanta. gratitudine, lasciare andare e non attaccarmi, no, alle No. persone, alle cose, perché No. quello mi faceva tanto soffrire. Quindi Sì. lasciare andare, sentire gratitudine. A me ha fatto sempre trasformare la crisi e quelle sono crisi grandi, però poi se vogliamo parlare delle piccole cose durante tutta la giornata non finiamo più. È pieno di crisi, È ma poi pieno di crisi, esatto. la cosa bella è che noi abbiamo sempre sentito parlare di crisi anche nei vari corsi, no? Nei libri, però purtroppo né un corso né un libro ti può insegnare quello che ti insegna la pratica, no? Noi stiamo parlando adesso di crisi non come guru della crisi, ma semplicemente raccontando le nostre storie, e credo che sia importante poi raccontare una storia o vivere una storia di crisi piuttosto che leggerla in un libro o studiarla, no? Quindi veramente grazie a te per aver vissuto questa crisi in questo modo, perché avresti potuto semplicemente piangere e essere arrabbiata con me e non aver risolto nulla, e oggi non avresti potuto raccontare questa storia meravigliosa che è la tua, e io starei qui a parlare da solo, fondamentalmente, non con te. Esatto, sì. Quindi evviva la crisi, veramente, Quindi proprio viva la come crisi, evviva la sì. Se crisi. qualcuno ci ascolta e vuole commentare, a me piacerebbe tanto che condividessero con noi anche i momenti di crisi, se c'è qualche ascoltatore, Sì. qualche aneddota, qualcosa che vuole condividere con noi, no? Sono molto curiosa perché tutto il giorno quando sono in ufficio, quando vengono le persone da me e mi raccontano le loro vite, è piena di crisi. Quando io gli suggerisco di sentire gratitudine, di lasciare andare, se facciamo Qualche aneddota, qualcosa che esercizi, vuole condividere con noi, rimangono sono un po' molto curiosa. sconvolti. Come sentire Tutto il giorno gratitudine quando se è un sono in momento ufficio, brutto, quando è un vengono le momento persone difficile? È sempre da come me e mi vediamo noi raccontano le le loro cose poi. storie. Cioè, Sì, sì, sì, sì, non è sì. l'atto stesso, E è quando come io gli noi, suggerisco, se quando sentire che gratitudine, atteggiamento lasciare abbiamo noi andare, verso quando quella vengono le cosa o quella persone, persona. quando Non so io se vorrei. lei è come sentire Sì, gratitudine vorrei se è un concludere momento proprio. Abbiamo brutto, è un finito. momento Siamo già, difficile. vedi Sempre che come questa vediamo mezz'ora noi sembra le lunga, cose ma è poi. sempre più breve. Non Non è capisco l'atto perché. stesso, è come Abbiamo noi. pochissimi secondi e vogliamo rimanere sempre Atteggiamento abbiamo noi precisi verso nella quella durata. cosa o quella E persona. quello che Quando vorrei io dire, lei è approfittando in sempre questi giorni come noi. di Vorrei questa concludere crisi proprio. che Abbiamo c'è, finito, no? In siamo già, giro, sempre come noi. sopra il terremoto, Esatto, e abbiamo non so pochi secondi e chi vogliamo vive in giro rimanere per l'Italia, sempre comunque ormai sapranno tutti che preciso sulla ci sono durata. queste scosse Quello che di vorrei dire è terremoto molto approfittando in forti. questi giorni Io di personalmente questa crisi che le ho c'è, no? sentite e insomma la mia casa Io personalmente ha personalmente scricchiolato vivo sopra il parecchio, anche se terremoto, sono lontano quindi vediamo dall'epicentro, se però chi ho vive in amici giro e per l'Italia parenti ormai sapranno tutti sopra che ci proprio il sono state terremoto queste nell'epicentro scosse. dove Quello ci che sono vorrei dire crolli, è molto eccetera. forti in questi E giorni. Io vorrei, a personalmente sto le punto, ho è sentite e difficile oggi insomma, la mia casa cercare e trovare personalmente ha un lato scricchiolato positivo, parecchio no, per il in questa terremoto, quindi crisi, sono che è lontano una crisi, dall'epicentro. diciamo, Però ho amici e parenti ambientale, no? Cioè la sopra terra proprio il trema, le terremoto case cadono, nell'epicentro dove è ci una sono bella trovati, crisi eccetera. veramente Io forte. personalmente Però appunto le ho sentite, è invito difficile oggi tutti cercare e trovare a un lasciare lato una positivo, porticina no? In aperta questa crisi che è verso una crisi, diciamo, l'opportunità che questa crisi sta amici, creando, ovvero ambientale, no? Cioè la io terra ho notato che trema, le dopo la case scossa sono cadono, uscito di una bella casa crisi veramente forte. se di Vorrei solito con i però vicini non parlo mai, quindi di invito solito i tutti vicini, a insomma, fare, ognuno a lasciare siamo una per i fatti porticina nostri, ho aperta notato che verso subito dopo la l'opportunità scossa che questa tanta la crisi sta paura creando, e ci perché siamo ritrovati lì io ho tutti a notato che condividere dopo la le nostre scossa paure. sono uscito Quindi di ci siamo casa trovati in un e momento veramente intimo di se con i miei condivisione vicini del non proprio parlo paure, del mai, proprio invito i momento soliti vicini del insomma, cioè, terremoto, a lasciare uno per i raccontando fatti ognuno la nostri, ho sua, notato che che di solo solito dopo la non si fa scossa mai. tanta la Non paura dico che creando questo e sia ci siamo positivo, ritrovati però lì dico, a condividere le nostre paure evidentemente di anche casa, qui ci c'è siamo trovati in un un'opportunità momento di intimo di imparare e condivisione proprio vedere paure del qualcosa che di fatto solito mai, non vediamo. Quindi, momento del visto che terremoto, tanto la crisi c'è, visto che il raccontando ognuno la terremoto c'è, sua, a prescindere da noi, che di tanto solito vale non si fa mai, cercare non qualcosa dico di che questo buono sia dietro. positivo, però Quindi dico lascio con questo augurio, evidentemente anche sperando qui che c'è ovviamente un'opportunità di non succeda imparare, più, ma vedere ecco, qualcosa che di solito sperare che non non vediamo. succeda più è Quindi, come sperare che la vita visto che sia tanto la assenta, crisi c'è, visto che il senza terremoto crisi. c'è, a E se prescindere la da crisi è noi, una tanto vale benedizione, cercare sperare che non qualcosa che di esistano buono le sia benedizioni, positivo. Quindi dico, ognuno lascio con poi questo augurio, fa le sue, sperando trae le sue che ovviamente conseguenze, giusto Paolo? Non succeda più, sì, ma ecco, noi non sperare che possiamo non succeda controllare più, le come cose sperare che che la accadono vita fuori, sia come assente dici, il senza terremoto crisi. o Se la catastrofi crisi è una ambientali. benedizione, cioè Noi lo sperare unico che che non possiamo esistano le controllare è benedizioni, quello che accade dentro di ognuno noi, poi dentro la nostra fa le testa e il sue, trae nostro le sue cuore. conseguenze, giusto Paolo? Quindi, Non succeda come hai più, detto, se vediamo noi sempre non le sperare cose, di cerchiamo controllare le le cose cose che positive accadono in mezzo fuori, come al dici, disastro, alle sì. difficoltà Se la e crisi è vivremo ambientale, meglio. Noi lo sì, unico che possiamo possiamo altro che controllare è vivere quello che meglio, accade dentro di noi, esatto, dentro la nostra testa e bene. vi ringrazio. Grazie Stefano per questa telefonata. Grazie a Per fortuna tutti. c'è la crisi Per fortuna c'è e la se volete crisi. sapere di più chi sono, che faccio, www.paolinaalexandra.it. Sì. Sarò felice di ricevere qualche commento. Andate a vedere il sito di paolinaalexandra.it perché è veramente bellissimo e non l'ho fatto io, quindi lo posso dire. Molto molto bello e va bene, stefanoroganti.com per me, il sito mio è un po' più bruttino ma ci sto lavorando e buon fine, buon fine, andate a vedere il sito di Paolina, ho fatto tutto da solo, quindi buon fine settimana, l'ho fatto io, okay? Lo posso dire, ok, buona giornata, ciao ciao a tutti, un abbraccio, ciao.